Dal giugno scorso gli spazi dell'ex centrale latte di via Corticella 129 sono stati oggetto di messa al bando da parte del Comune di Bologna. Ad ottenere la loro gestione sono state le assemblee e le reti sociali del laboratorio Crash, che è un'esperienza politico-culturale attiva sul territorio bolognese ormai da più di 15 anni e che ha più volte recuperato negli anni passati attraverso l'auto-organizzazione immobili pubblici e privati lasciati all'incuria, al degrado, per trasformarli in spazi accessibili alla popolazione cittadina, proponendo eventi culturali, teatrali, laboratoriali all'interno dei propri spazi. Il laboratorio Crash è riuscito a portare sul territorio bolognese nomi come Stefano Benni, Valerio Evangelisti, Zero Calcare, Di Schianto, i Massive Attack, i Batcock e tanti altri, soprattutto anche tante crew locali che hanno potuto avere uno spazio che ospitasse la loro proposta artistica e tantissime persone che hanno potuto godere di eventi culturali di alto livello a prezzi estremamente accessibili a tutti e tutte. Come da sempre però il nostro agire, che è quello del laboratorio Crash, è sempre stato incentrato sulle parole d'ordine dell'antifascismo, dell'antirazzismo, dell'antisessismo, dell'inclusività, della solidarietà. In questo modo, in questo momento, dove finalmente anche la tutela dell'ambiente, la lotta contro il cambiamento climatico e la devastazione dei territori è stata posta anche all'ordine del giorno da milioni di uomini e donne di tutto il mondo, vogliamo costruire nello spazio dell'ex centrale di via Corticella le buone pratiche ecologiche. Vorremmo ospitare mercati contadini basati sulla produzione biologica a chilometro zero, cooperare con associazioni che operino al di fuori della logica, dalle logiche dello sfruttamento del lavoro, del caporalato, come stiamo facendo con SOS Rosarno, con la distribuzione delle arance che riprenderà avvio da questo mese proprio all'ex centrale. E proprio vorremmo che l'ex centrale diventi uno spazio aperto al quartiere Corticella e a tutta la città, un punto che ritorni a essere ritrovo ed incontro sia per la popolazione giovanile che quella un po' più anziana, diciamo, a partire da una fitta programmazione artistica e culturale che stiamo già per riattivare con questa prima tranche di eventi che stiamo portando su tutto il territorio bolognese. Primo fra tutti sarà quello di venerdì prossimo nella sede delle Caserme Rosse di via Corticella, dove prenderà avvio la presentazione, il ciclo di presentazioni del progetto e del Founderizing che abbiamo istituito e messo in piedi per sostenere costi economici che sono veramente importanti per la rigenerazione dal basso degli spazi dell'ex centrale. Avete pubblicato anche alcune foto che fanno vedere le condizioni in cui versa, no, questo spazio al momento, o appena l'avete trovato, insomma. Sì, esatto, siamo entrati da poche settimane all'interno di quegli spazi ed è uno spazio che è vuoto da 50 anni, quindi vi lascio immaginare le condizioni in cui versa. Per questo abbiamo attivato la campagna di crowdfunding che si pone l'obiettivo a step, questo primo step, di raccogliere 5.000 euro per poter dare avvio ai lavori di sistemazione e rigenerazione. Si parla appunto di una grande sala che vorremmo riadibire a concerti, altre tre sale più piccole e secondarie dove vorremmo prendessero avvio tutte le esperienze laboratoriali che già nei precedenti laboratori Crash avevamo attivato, e in più dopo c'è tutta la questione di forniture, allacci elettrici, dell'acqua e via dicendo, di cui l'ex centrale è sprovvista. Quindi abbiamo attivato questa prima fase di crowdfunding in cui invito tutti e tutte a parteciparvi, a sostenere attraverso il sito Produzioni dal Basso, sul quale si può dare il proprio contributo anche economico in cambio di anche delle ricompense che abbiamo voluto ridare a chi vorrà sostenere il nostro progetto, che sono una serigrafia di Zero Calcare che si è voluto anche lui adibire, comunque dare un contributo alla campagna, o il nuovo libro del laboratorio Crash sulle questioni urbane. Per il resto è già attivo, appunto, per quanto riguarda il Founderizing, tante attività che nei prossimi, da qua a Natale, ci vedranno in vari spazi di Bologna a presentare insieme ad architetti di strada il progetto e a sostenerlo con cene, aperitivi e iniziative. Il primo appunto è quello di venerdì alle Caserme Rosse. Martedì prossimo saremo negli spazi del centro sociale VAG in Cirenaica con un aperitivo operativo Mangereccio, e anche lì sarà la presentazione del progetto. E però può susseguire seguendo le nostre pagine Facebook e Instagram, Ex Centrale Bologna, o il sito excentrale.it. Invito tutti gli ascoltatori a tenersi aggiornati sui prossimi momenti con i quali poterci incontrare e condividere con noi questa esperienza. Tu prima hai ricordato il passato, insomma, del laboratorio Crash con l'auto-organizzazione. Perché questa scelta invece di seguire ora un canale che è istituzionale, quello di un bando pubblico? Ma diciamo che noi siamo un collettivo, ma abbiamo anche tante reti sociali. Quella che vuole essere l'esperienza dell'ex centrale del latte, che abbiamo voluto propriamente battezzarla con questi nomi, vuole essere uno spazio nuovo, uno spazio che all'interno del quartiere Corticella trovi e sviluppi le possibilità di continuare le relazioni che abbiamo lì sul territorio, che negli anni abbiamo sviluppato con i comitati antisfratto, con le occupazioni abitative, con la presenza essa stessa delle occupazioni del laboratorio Crash sul territorio e con l'associazionismo con il quale abbiamo sviluppato tante iniziative e attività. Quindi quello dell'ex centrale è sicuramente un passo ulteriore delle svariate reti e iniziative che il laboratorio Crash ha portato avanti in questi ultimi anni e con le quali vuole proseguire. Diciamo che vuole essere un progetto che abbia una sua stabilità e possa proseguire con tutta tranquillità, senza l'ombra dello sgombero, tutti i percorsi che sono stati sviluppati all'interno del quartiere di Corticella, della periferia nord di Bologna, e dall'altra con proseguire con tutte le attività del laboratorio Crash, che sicuramente non mancheranno di esistere all'interno del contesto cittadino bolognese.